Italia in controluce. Buon pomeriggio, 13:33 minuti e 12 secondi, Daniele Biacchessi per Italia in controluce, l'approfondimento di GR Radio 24 dedicato alla cronaca italiana. E la puntata odierna è dedicata alla cultura, allo spettacolo nelle città. Come viene amministrata la cultura? Quali sono le eccellenze? Quali restano invece i problemi da affrontare? Ad esempio, i tagli delle ultime finanziarie hanno indebolito il settore. Partiamo da Milano, che corre verso Expo 2015. La cultura, almeno in modo teorico, potrebbe rappresentare davvero la nuova vocazione di Milano. Ma la città ne è consapevole e pronta. Il racconto di Raffaella Calanda. Che verso fa la cultura a Milano oggi? Non è solo la musica della Scala, il palcoscenico del Piccolo o la fila davanti alla mostra di opera a Palazzo Reale. Se con un grande microfono si potessero sorvolare le strade e trasformare in suoni le fibrillazioni e le atmosfere, le tradizioni e le aspettative, le lamentele dei pessimisti e l'entusiasmo degli altri, la voce prevalente della città sarebbe quella dei suoi cantieri. I cantieri dove si ripara e si modifica ciò che c'era e quelli dove si crea dal nulla. Perché su un punto tutti sono d'accordo, l'Expo può e deve diventare l'ascensore verso un nuovo attico. Una nuova terrazza Martini, ma della vita culturale ora, una volta consegnati alle cronache della Prima Repubblica i ricordi di Piazza Diaz. Perché secondo molti è dalla ferita di Tangentopoli che esce anche quella certa nebbia intorno alla vita culturale. E per diradarla in vista del 2015 è al lavoro una squadra di acchiappa idee specializzati. Il direttore della Scala, Lisner, quello del Piccolo, Escobar, del Parenti, Sciammà, Di Mito, Restagno e Michele, come del Museo della Scienza, Urbani, nonché il direttore della Triennale, da molti indicata come il principale laboratorio di novità, Davide Rampello. In un grande momento di trasformazione, di grandissimo fermento, il problema di come comunicare, ma per comunicare intendo dire bisogna inventare una metafora, bisogna sviluppare un immaginario. Lei ha parlato di una trasformazione, verso dove? La trasformazione che io sto parlando è un'evoluzione. In questo momento di evoluzione della città, a maggior ragione, diciamo, l'Expo potrebbe rappresentare una occasione per anche ridare un tipo di marchio alla città, differente rispetto a questa immagine un po' opaca che sembra essersi, diciamo, conquistata ultimamente. Ci riuscirà secondo lei? Perché non deve riuscire. È evidente anche che adesso è ora che l'Expo esca con delle azioni, e sì, delle azioni sulla città, ma non sulla sua città, perché quando è sulla città evidentemente poi riverbereranno. Noi abbiamo già pensato e abbiamo già lavorato a dei progetti. È evidente che l'Expo deve essere una grande chance, dipende da noi, anche da noi, affinché tutto questo accada e tutto questo evolva in un modo positivo. Progetti come quello di commissionare testi a intellettuali di tutti e cinque i continenti, da tradurre poi in spettacoli che si terranno nei due teatri dell'area Expo. In Triennale invece hanno già preannunciato una mostra sull'Altre Povera, tra l'altro. Sarà la creatività, dice Rampello, la nuova parola d'ordine. I prossimi 4 anni, come precedenti sono stati dettati, per esempio sul territorio, sull'analisi del territorio, delle sue fragilità, la città fragile, la città infinita, la vita nuda, eccetera, da quest'anno partiremo con una linea che sarà evidentemente la rappresentazione delle creatività milanesi e nazionali. Dietro a questo evidentemente sviluppare tutta una serie di grandissime manifestazioni, eventi, mostre. Da dove viene l'innovazione e l'innovamento se non dalla creatività? In questo think tank della cultura l'entusiasmo è forte e le frizioni politiche, ha detto Escobar, restano fuori dalla porta per far entrare invece lo spirito positivo del giorno della vittoria di Milano su Smirne. A tutti però restano evidenti le difficoltà registrate intorno alla macchina Expo, in linea con un'atmosfera complessiva che non è quella di una città che si prepara a una grande occasione, nota Giuseppe Di Leva, professione librettista. Io penso che effettivamente non è al massimo della sua forma e che d'altra parte non lo sia da anni. L'Expo può essere anche una buona medicina, è una città che è in mano delle lobby, in mano degli ambienti anche più genericamente, che sono gli ambienti che hanno molti soldi da spendere, ma credo che ci vogliono anche delle grandi idee. Una città che inevitabilmente ha corso come a tante la ferita di Tangentopoli, è cambiata molto anche per altre ragioni, immigrazione, cambio del lavoro. Alla scuola d'arte drammatica Grassi, dove da anni insegna, a fine mese farà partire un ciclo di 6 incontri per fare del teatro il punto di raccordo tra musica e scienza. Una delle tante iniziative che a Milano avvengono, ma che, secondo Di Leva, è difficile mettere in contatto in rete in nome di un progetto condiviso. Le cose che ci sono interessanti o meno, interessanti come sempre purtroppo non sono moltissime, non fanno sistema e quindi ci sono tante iniziative ma non si ha un quadro. Credo che occorra qualche grande invenzione. Senza grandi invenzioni, che come sempre sono rischiose, credo che si vada avanti in un tran tran dinamico, ma in una città che non è particolarmente invitante. Italia in controluce. E domani inizia il Carnevale a Roma, cortei in maschera, concerti, spettacoli teatrali, eventi di ogni genere. Ma oggi Roma si può ancora considerare la capitale culturale di questo paese e anche la capitale dello spettacolo? Oppure ormai Torino, come abbiamo già detto in un servizio qualche giorno fa su Torino, capitale della cultura e della ricerca, ha preso il suo posto? Elisabetta Fiorito. Domenica d'agosto, che caldo fa. C'erano una volta gli anni 50, quelli descritti in Una domenica d'agosto, il film in bianco e nero con Ave Ninchi e un giovanissimo Franco Interlenghi, che raffiguravano una Roma calda e deserta dove l'unico svago era quello di prendere la via del mare e andare a Ostia. Poi arrivò il 77, l'allora giunta di sinistra guidata da Carlo Argan con assessore alla cultura Renato Nicolini lanciò l'estate romana. Eventi, spettacoli, manifestazioni, cinema all'aperto. Una città che si svegliava e viveva anche d'estate, tanto che alla fine c'erano più eventi in estate che in inverno e nel 2006 l'allora sindaco Walter Veltroni lanciò anche la festa del cinema, questa volta in autunno. Ma nel 2008 il colpo di scena, dopo decenni di amministrazione di centro-sinistra, Roma passa al centro-destra e il nuovo sindaco Gianni Alemanno dichiara che le sue priorità sono altre. Soprattutto le buche delle strade, l'illuminazione che non funziona, le fogne che si allagano ogni volta che piove forte in città. Italia e la cultura si fanno sentire, ma Alemanno nega che Roma ne risenta. È una vecchia nostalgia della sinistra che stanno ancora dopo 2 anni in pratica a rimpiangere Veltroni, Rutelli. In realtà noi abbiamo dimostrato dal punto di vista culturale il nostro impegno non è affatto diminuito, anzi è aumentato. Si sono moltiplicati gli eventi, le occasioni, magari si sono ridotte le occasioni in cui si buttavano soldi, diciamo così, senza una ricaduta effettiva sulla città, quindi meno sprechi e un maggiore livello di attenzione, quindi da questo punto di vista pensiamo, e lo dimostrano anche i sondaggi, che Roma non abbia perso nulla, anzi abbia guadagnato. Anzi, per recuperare il tempo perduto, oltre all'emergenza sicurezza, le cavitoie, i barconi sul fiume e le onnipresenti buche stradali, Alemanno lancia quest'anno il gemellaggio con Venezia durante il Carnevale, un modo per ripristinare i tempi in cui a Roma convergevano da tutto il mondo, come descrive Alexandre Dumas nel Conte di Montecristo. Una tradizione antica, come spiega Angelo Branduardi, testimone d'eccezione di questo Carnevale. Sono stato chiamato a celebrare anche il Carnevale romano, eseguiremo musica dal 4 al 600 con strumenti d'epoca, musica carnescialesca nel momento in cui il Carnevale a Roma era altrettanto importante di quello di Venezia e di Firenze. Il Carnevale romano, quando alla mezzanotte del martedì grasso tutti i cittadini si riunivano in via del Corso e davano fuoco alle candele, anzi ai moccoli in dialetto, per fare il funerale alla festa e iniziare la quaresima. Ma la città è davvero la stessa degli anni della giunta di centrosinistra? È ancora Roma la capitale della vita culturale del paese? La deputata romana del Partito Democratico Giovanna Melandri non la pensa così. No, Roma sta perdendo quella centralità e quella capacità di fare dell'investimento sulla cultura uno dei settori di produzione, come dire, della ricchezza non solo civile, spirituale, culturale, ma anche economica e occupazionale di questa città. È un grandissimo tema, stanno chiudendo teatri, stanno chiudendo istituzioni culturali, si sta desertificando. E allora, chi ha ragione? Difficile scoprirlo durante il carnevale che sta per iniziare, anche perché, come dice l'antico proverbio, a carnevale ogni scherzo vale. Elisabetta Fiorito, GR24 e Il Sole 24 Ore, Roma. Alle 13:43 minuti e 28 secondi avete sentito da una parte Milano che cerca un'anima, la sua anima culturale, quella di forse l'evoluzione di Paolo Grassi, il sogno di Giorgio Strehler, e dall'altra parte avete sentito Roma che aveva un'anima e che secondo alcuni, come appunto il sindaco Alemanno, ha mantenuto, anzi forse rilanciato, e invece secondo il Partito Democratico questa anima culturale di capitale l'ha persa. Comunque voi avete sentito una settimana di Italia in controluce, cioè la cronaca italiana secondo Radio 24, da lunedì al venerdì 6.30, 13.30, i reportage della redazione di Radio 24 e dei nostri collaboratori sparsi per il territorio, i servizi, le loro interviste. Tutte le puntate di questa settimana e anche quelle delle passate sono disponibili su www.radio24.it. Poi potete iscrivere e utilizzare il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, oppure inviarci idee e proposte controluce@radio24.it. Ci risentiamo lunedì alle 6.30.